C'è un motivo per continuare questa giornata? Sì, continuare a glorificare Dio. C'è un motivo per cominciare la settimana? Sì. C'è un motivo per andare in ferie? Chi di voi va in ferie? Per andare a lavorare? Sì, continuare a glorificare il nostro Dio. Come? Leggendo questo verso. Voglio chiedere a Sara di mettere il verso. Leggiamolo insieme. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Amen. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti, osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitti agli egiziani, perché io sono il Signore. La parola giusta di questo Signore è Geova Jaffa, che significa io sono colui che ti guarisce, il Dio che ti guarisce. E giunsero ad Elim, dove erano 12 sorgenti di acqua e 70 palme, e lì si accamparono presso le acque. Un'altra versione dice lì le acque erano dolci. Amen. Immaginiamo che cosa è successo. Grazie, mi serviva. Immaginiamo ora, chi di voi vuole un bicchiere d'acqua? Io. È anche frizzante, quindi non prometto niente. E se quest'acqua che mi avessero portato fosse amara? E nel momento in cui siamo tutti sudati, fa caldo, il popolo di Israele è nel deserto, e arrivi a dell'acqua e ne hai veramente bisogno, e l'acqua che c'è non la puoi bere perché è amara. Non è un po' brutto avere un bicchiere d'acqua e non poterlo bere quando ne hai veramente bisogno? Il popolo di Israele aveva appena vissuto una grossa liberazione. Il Mar Rosso si era appena aperto davanti ai loro occhi. Hanno camminato 3 giorni nel deserto, erano esattamente dove Dio voleva che il popolo fosse. Stavano facendo esattamente la volontà del Signore, eppure l'acqua che hanno trovato davanti era amara. Non la potevano bere. Chiesa, quante volte l'amarezza arriva davanti a noi senza che la possiamo controllare? Quante volte siamo amareggiati? Quante volte qualcosa di amaro entra e non lo possiamo togliere? Forse sei qui questa mattina e il tuo cuore può essere chiamato Mara. La tua anima forse può essere chiamata Mara perché c'è acqua amara dentro. Sai, l'acqua amara non può essere usata per niente, neanche per innaffiare, fa morire anche le piante. Come mai? Arriva un momento in cui stai camminando e le acque diventano amare. Non è garantito che siano sempre belle, non è garantito che siano sempre bevibili, ma quello che ci garantisce la parola di Dio è che se noi ci mettiamo il legno dentro, quelle acque diventano dolci. Amen. E che cos'è il legno? Ditemelo voi. È Cristo Gesù, è il suo sacrificio per noi, è il suo essersi dato per noi. E quando Mosè ha messo il legno nelle acque, le acque sono diventate dolci. Non c'è nessun altro modo. Possiamo provare a fare psicoterapia, lasciatemelo dire. Possiamo provare a fare incontri su incontri. Forse puoi provare a fare di tutto, puoi andare, non so, a fare yoga, non so che schifezza puoi fare. Ti assicuro che le nostre acque non diventeranno mai dolci se non ci facciamo entrare il legno dentro. Il nostro cuore amareggiato, ferito, non può cambiare se il legno non entra dentro. E non siamo noi a poter cambiare quell'acqua, ma è il legno che assorbe l'amarezza. È Cristo Gesù che assorbe il nostro dolore, che assorbe le nostre ferite, che assorbe il nostro peccato, che toglie l'amarezza. e ho ricevuto questa parola proprio ieri per noi chiesa. Forse ci sono tanti qui come me che hanno bisogno di mettere il legno nel proprio cuore, che hanno bisogno di far diventare la propria acqua dolce. E sai come si rivela Dio lì? Geova Jaffa. Per la prima volta nella storia della Bibbia, per la prima volta nella storia del suo popolo, Dio si rivela come l'Iddio che guarisce. E non sta parlando di guarigione fisica, la prima volta che Dio si manifesta come il guaritore, sta parlando del cuore, sta parlando dell'amarezza. Perché quando siamo guariti qui, siamo guariti fuori. Se stai cercando una guarigione fisica, io ti dico oggi cerca la guarigione del tuo cuore per prima, perché forse è da lì che parte l'amarezza, forse è da lì che partono i dolori, forse è da lì che parte la malattia. Sciogli questo nel tuo cuore, sciogli questo nel tuo cuore. Come? Fai entrare il legno. Vivi oggi l'opportunità di constatare che Dio è Geova Jaffa, colui che guarisce, colui che guarisce. Amen. Così voglio fare due cose. Uno, subito, lo so che non ti sto convincendo con le mie parole, che non sono neanche messe nell'ordine giusto, ma so che lo Spirito Santo, appena abbiamo messo questo verso, ha parlato al tuo cuore dicendoti che hai bisogno di guarire dall'amarezza. Io ti voglio chiedere ora di alzarti in piedi, e se hai bisogno di guarire dall'amarezza e che nel tuo cuore entri il legno, io ti voglio chiedere di alzare la tua mano, voglio pregare per te. Tutti coloro che hanno bisogno, mi alzi un po' la galleria, Vito, per piacere, tutti coloro che hanno bisogno che il legno, Gesù, colui che guarisce, cambi l'amarezza in gioia, cambi l'acqua amara in dolcezza, cambi qualcosa che non può essere utilizzata in qualcosa che può essere utilizzata. Dio vuole fare della tua vita non una vita che non benedice, Dio vuole fare della tua vita un'acqua buona per tutte le cose che Dio ci ha chiesto. E quando siamo amari non serviamo a nulla. E quando ci spingono esce l'amarezza. E quando ci chiedono di suonare esce l'amarezza. Quando ci chiedono di stare all'accoglienza esce l'amarezza. Quando lavoriamo esce l'amarezza. Quando sei con tuo figlio esce l'amarezza. Perché? Perché il nostro cuore è pieno di mara. È un cuore che si chiama mara. Dio oggi vuole cambiare il tuo cuore. Dio oggi vuole guarire la tua anima. Questo è agosto da Dio. Non rimandare. Sai come si fa? Le scelte, il lavoro, la palestra, si inizia da settembre. No, agosto da Dio è questo, è l'opportunità per arrivare a settembre diversi, per arrivare a settembre carichi e non sgonfi. Quindi comincia da ora. Posso vedere le mani? Tutti coloro che hanno bisogno di preghiera. Se sei vicino a qualcuno che ha la mano alzata, metti una mano vicino, metti una mano sopra, cominciamo a pregare. Se preghi in nuove lingue, alza la tua voce. Preghiamo in nuove lingue che il Signore, il legno, Cristo Gesù, possa trasformare quest'acqua amara in acqua dolce. Oh Signore Gesù, grazie.